Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Laura Morando, la ricetta della felicità, dei cuccioli di casa, di Anna Marino. Io personalmente ho fatto la scelta di vivere in un appartamento perché viaggio molto per lavoro, per cui animali in questo momento non ne ho. Ovviamente la passione per gli animali c'è, essendo poco a casa mi spiace anche lasciarli soli, non poterli coccolare, non poterci stare assieme, non poterci giocare, quindi in questo momento purtroppo è così. Non solo nutrire gli animali, ma anche essere presenti per curarli vuol dire amare i piccoli amici di casa, secondo Laura Morando, terza generazione della famiglia che ha inventato il mercato del pet food in Italia. Nata dall'idea imprenditoriale di Enrico Morando, dal 1955 Morando S.p.A. è stata infatti la prima in Italia a produrre e commerciare cibo per animali con linee di prodotti specifiche per cani, gatti e cavalli. 200 dipendenti, fatturato 2010 pari a 85 milioni di euro. L'azienda oggi conta 5 linee di prodotti, tra i più conosciuti i brand Miglior Cane e Miglior Gatto, frutto di anni di esperienza su qualità, controlli, rigorosa selezione delle materie prime e impiego di ingredienti genuini. In principio c'è stato un viaggio rivelatore in Francia, dopo il quale, per prima cosa, Enrico Morando si è recato a Roma, presso il Ministero dell'Agricoltura, per richiedere l'autorizzazione ministeriale e ricevere le informazioni necessarie in merito alle norme igienico-sanitarie. Laura Morando ricorda i racconti degli inizi di nonno Enrico. Allora, addirittura la storia raccontata da mio nonno nasce nella guerra, nel dopoguerra. Dopo la guerra lui ha iniziato a commerciare in cereali, in granaglie, e il mercato allora più florente e più ricco era quello francese, e lui quindi andava direttamente a Marsiglia a comprare il grano che arrivava sulle navi. In uno di questi suoi viaggi ha visto una pubblicità muraria in cui veniva pubblicizzato appunto delle lattine per cani con all'interno dei bocconcini vitaminizzati. Lui mi racconta che in tutto il viaggio di ritorno pensava a questa pubblicità e a cosa fossero questi prodotti, e arrivati in Italia a casa ha iniziato a fare degli studi e ha visto che da noi non c'erano ancora le autorizzazioni per poter produrre un tale prodotto, per cui racconta di aver fatto molta fatica a ottenere tutto questo, perché ad Alba o comunque a Cuneo, a Torino non è riuscito a aver risposto e ha dovuto partire e andare fino a Milano, a Roma. A Roma, dopo giorni, lui dice che è stato 3 giorni a aspettare che qualcuno gli desse delle risposte. Finalmente, dopo 3 giorni, è riuscito a ottenere queste autorizzazioni per produrre. E da lì ha iniziato a produrre a Neive le lattine per cani inizialmente, e lui ancora nel suo ufficio il primo sterilizzatore che sterilizzava 6 lattine alla volta. Nonno Enrico aveva visto lontano. La sua intuizione di un mercato in espansione è stata vincente. Il resto è stato imparare bene il mestiere da persone esperte, per cui l'azienda ha saputo, nel corso degli anni, innovare i processi produttivi e ampliare la gamma di prodotti, rimanendo fedele a elevati standard dei prodotti, made in Italy, con materie prime del nostro paese e tecnologie che da sperimentali sono diventate sempre più avanzate. Senza dimenticare il fattore umano come determinante per ogni decisione. Noi ultimamente abbiamo fatto molte ricerche di mercato e lui ci rimprovera sempre, perché quando ha iniziato con questa idea del mangime per cani e gatti si era rivolto già ai tempi a un'agenzia di Milano che faceva ricerche di mercato, e gli avevano chiesto se era pazzo. E gli avevano detto no, il mercato non è assolutamente pronto per questo prodotto, e quindi lui non aveva ascoltato assolutamente questa ricerca, e quindi ogni volta che noi le facciamo lui ci ricorda questo episodio e ci dice: non dovete ascoltarle alla lettera, perché a volte sbagliano. L'azienda vede la luce a metà degli anni 40 con la denominazione di Enrico Morando & Company S.A.S. È proprio il suo fondatore, tuttora presidente dell'azienda a 89 anni, a introdurre per la prima volta a livello nazionale il concetto di pet food, fino ad allora presente all'estero ma sconosciuto in Italia. Nei primi anni di esercizio, l'azienda tratta la commercializzazione di prodotti legati all'agricoltura ed Enrico Morando inizia davvero dal nulla. Entrambi i miei nonni sono originari di Castiglion Tinella, che è un altro paese nelle Langhe. Loro si sono conosciuti ovviamente in questo paese, poi si sono trasferiti a Neive, poco lontano, perché era più comodo per spostarsi e per commercializzare. I ricordi che ho di mio nonno riguardano soprattutto i suoi racconti di guerra e di come è riuscito a sopravvivere durante questo periodo e di come è riuscito anche a iniziare i suoi commerci proprio in questo periodo in cui c'era un bisogno, insomma, di qualcuno che si inventasse qualsiasi cosa. Lui racconta che suo papà gli aveva regalato una mucca per il trasporto, diciamo, e da lì è iniziata la sua fortuna. Lui dalla vendita della mucca ha fatto i suoi primi guadagni e da lì ha iniziato con poco, man mano, a costruire quello che abbiamo adesso, insomma. Vita difficile ma in crescita, fino alla scoperta fatta nella trasferta a Marsiglia. Da lì è una crescita continua anche dimensionale, con il moltiplicarsi degli stabilimenti e con l'ingresso della seconda generazione, i figli Giovanni e Walter. Un po' il mercato ha iniziato a crescere molto. Mio nonno, insomma, ha avuto due figli, uno mio padre, l'altro mio zio, che sono subito entrati in azienda perché c'era bisogno, insomma, si era partiti da niente, si aveva già qualcosa, per cui bisognava andare avanti, no? Per cui Neve non bastava più come produzione. Negli anni 70 l'azienda si è spostata a Castiglione delle Stabiere, a Mantova, e lì, insomma, è iniziata la vera produzione, quella a livello industriale. Dopodiché si è anche iniziato, ha avuto la necessità di iniziare a produrre del secco, il prodotto secco, e quindi è stata rilevata un vecchio mulino che era ad Andezeno, vicino a Torino. Lo stabilimento di Mantova è stato poi venduto negli anni 80 e è stato acquistato lo stabilimento di Molfetta, in provincia di Bari, perché comunque era un nodo strategico per le esportazioni nell'est dell'Europa, per cui è stato acquistato questo stabilimento in una zona che ai tempi non aveva nulla, nel senso che c'era possibilità di espandersi. Adesso è diventata una grande zona industriale, ma ai tempi mio nonno mi diceva c'eravamo noi, un signore che faceva l'olio. E questa è un'azienda, insomma, il nostro fiore all'occhiello perché è nuova e ha delle tecnologie veramente all'avanguardia, insomma. Gli anni recenti hanno inoltre portato nuovi ingressi in azienda. La terza generazione della famiglia, in particolare i nipoti del fondatore Franco e Laura, hanno affiancato i genitori e il nonno nella gestione dell'impresa, aggiungendo all'esperienza accumulata nuove competenze e motivazione. Fin da subito si sono mio nonno, poi anche mio padre e mio zio, si sono sempre appoggiati a degli esperti veterinari perché comunque la loro competenza era una competenza acquisita con l'esperienza. Però era giusto ed è giusto appoggiarsi a esperti, per cui veterinari, università fin da sempre. La nostra formazione, sia mia che mio cugino, non ha niente a che vedere con il mondo veterinario. Mio cugino è laureato in legge, io in ingegneria, quindi laurea un po' più generiche, perché poi nello specifico ci si appoggia appunto a esperti del mestiere. Guida il passaggio generazionale della famiglia Morando una serie di messaggi che Laura riassume. Sì, i concetti fondamentali sono grande voglia di fare, non aver paura di affrontare qualsiasi difficoltà, avere proprio voglia di fare, di innovare, di andare avanti, di vedere lontano. Insomma, sono questi i concetti che ci ha sempre passato mio nonno e poi i nostri genitori. Cioè non arrendersi, andare avanti e far sempre meglio, insomma, e cercare sempre novità, novità, novità. L'azienda oggi esporta il 20% del totale delle vendite, specialmente nei paesi dell'Europa dell'Est. E questo, per la famiglia, vuol dire vivere comunque con le valigie in mano. La nostra espansione all'estero è iniziata principalmente con mio papà, che ha iniziato a rivolgersi ai mercati dell'ex Jugoslavia, per cui Slovenia e Croazia, poi verso la Grecia, verso questa parte qua dell'Europa, ed è stato lui in prima persona che per molti anni ha portato avanti il discorso estero. Poi poi 7-8 anni fa, visto che il mercato estero iniziava a essere difficile da affrontare da solo, abbiamo poi assunto un export manager. Però è molto importante, soprattutto all'estero, la presenza della famiglia, perché ancora di più all'estero sentono che se la famiglia è presente si sentono rincuorati, si sentono protetti. Per cui io e mio padre continuiamo tuttora, nei limiti del possibile, a seguire l'export manager, insomma, all'estero, a tutte le fiere, ci siamo sempre. A garantire il benessere dell'animale non sono soltanto i prodotti finiti, ma anche e soprattutto l'etica aziendale in fase di produzione. Tutti i prodotti Morando, infatti, sono sviluppati in laboratorio e rigorosamente controllati da veterinari e non danno vita ad alcuna sperimentazione su animali. Questa è una scelta proprio fatta da sempre, cioè l'amore per gli animali non prevede di fare test invasivi su di essi. Noi ricerchiamo l'eccellenza delle materie prime, abbiamo tutte materie prime che arrivano dall'Italia, su cui facciamo giornalmente dei test di qualità. No, la qualità, cioè, non si mette in dubbio su questi prodotti, perché appunto, come dicevo prima, l'animale è un membro della famiglia. E si usa la stessa attenzione che si usa per noi umani. Morando è associata alla SALCO, l'Associazione Nazionale Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia, che dal 2006 riunisce al suo interno tutte le principali aziende dei settori pet food e pet care operanti in Italia. Ma i veri professionisti della qualità e del gusto sono i cani e i gatti assaggiatori. Gli assaggiatori sono un po' gli animali di famiglia che sono assaggiatori, i primi assaggiatori. Poi, come si fa per gli umani, ci sono degli allevamenti che fanno questo, insomma, sono degli allevamenti soprattutto al nord Europa, molto controllati, dove ci sono gatti, cani, assaggiatori, appunto. La prima scelta, la seconda scelta, quanto mangiano, se gradiscono, se non gradiscono. Sì. Tirando le somme, in questo settore, come racconta Laura Morando, non si finisce mai di imparare e migliorare e di curare sempre di più i piccoli amici. Sì, è un mondo molto particolare e molto divertente anche. Molto spesso noi ci recchiamo anche nei supermercati e facciamo domande di persona, proprio perché è importante capire cosa pensa il proprietario di un cane o di un gatto. È un mercato che si avvicina molto al genitore di un bambino, per cui il cane o il gatto è proprio visto come un bambino, per cui ci si chiede: questo prodotto lo farà star bene, gli piace, non gli piace, il mio preferisce il pesce, il mio pesce invece non lo mangia, preferisce i croccantini al coniglio. Vedi proprio un'empatia col proprio animale. Quello che noi diciamo sempre è che il bambino magari piange, poi dopo parla, per cui tu hai un'interazione col bambino. Con l'animale l'unica soddisfazione che hai è magari vederlo star bene, vederlo mangiare. Non può dirti se questo cibo gli piace o non gli piace, o lo fa star bene o lo fa star male. Per cui è bello quando ti ringraziano del fatto che gli piace, che questo gusto gli piace, lo divora, e loro sono soddisfatti di vedere questa cosa. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.